que estás la colina. Diste eso come un vecchio adormentato, la luna l'abbandono niente sulla tua malattia. Vai se mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Soprattutto forse niente di domani si vedrà. Che sarà, sarà quello che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte viaggerò, e una nebbia di paese suonerò. Amore mio ti bacio sulla bocca, che nulla vuol dire il mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Come porto la chitarra, che se la notte piangherò, che io una nebbia di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Soprattutto forse niente di domani si vedrà. Che sarà, sarà quello che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangherò, che io la linea di pace suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà.